ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Ottava puntata. Diario del decorso della malattia del professor Probaszenski. Alle ore 1:13, profondo svenimento del professor Probaszenski. Al momento della caduta ha colpito con la testa la gamba di una sedia, tintura di valeriana. Alla presenza mia e di Zina, il cane, sempre che naturalmente lo si possa chiamare cane, ha insultato volgarmente il professore. Interruzione degli appunti. 6 gennaio, ora a matita, ora inchiostro violetto. Quest'oggi, dopo che gli si è staccata la coda, ha pronunciato in modo assolutamente chiaro la parola birreria. Il fonografo in funzione, lo sa il diavolo di cosa si tratta. Non mi ci raccapezzo. Il professore non riceve più pazienti. A partire dalle 5 del pomeriggio, dall'ambulatorio, dove questo essere se ne va avanti e indietro, si sentono distintamente imprecazioni volgari e le parole «ancora un paio». 7 gennaio, pronuncia molte parole, «vetturino», «non c'è posto», «giornale della sera», «il miglior regalo per i bambini» e tutte le parolacce esistenti nel vocabolario russo. Ha un aspetto spaventoso. Il pelo è presente soltanto sulla testa, sul mento e sul petto. Per il resto è calvo, con una pelle piuttosto floscia. Nella zona degli organi sessuali è un uomo nella fase della pubertà. Il cranio si è notevolmente ingrandito, la fronte è bassa e sfuggente. Per Dio, sto diventando matto. Filip Filipovic continua a sentirsi male. Sono io a eseguire la maggior parte delle osservazioni, fonografo, fotografie. In città si sono propagate delle voci. Conseguenze innumerevoli. Oggi pomeriggio l'intero vicolo era pieno di vecchiette e fannulloni. Anche adesso ci sono dei perdigiorno fermi sotto le nostre finestre. Sui giornali del mattino è apparso un trafiletto sorprendente. Le voci a proposito della presenza di un marziano in vicolo a Bukov sono del tutto infondate. Sono state diffuse dai commercianti del mercato e saranno punite severamente. Diavolo, ma che c'entrano qua i marziani? Questo è un vero incubo. Ancora meglio, sui giornali della sera hanno scritto che era nato un bambino che suona il violino. C'è anche un disegno e la mia fotografia con sotto la scritta «Professor Probaszenski che ha eseguito il taglio cesareo alla madre». È qualcosa di indescrivibile. La nuova parola è poliziotto. Salta fuori che Daria Petrovna era innamorata di me e aveva sgraffignato la foto dell'album del professore dopo che questi aveva scacciato i reporter. Uno di loro si era infilato in cucina e così via. Cosa non succede durante l'orario di visita? Oggi hanno suonato la porta 82 volte. Il telefono è stato staccato. Le signore senza bambini hanno perso la testa e vengono qui. Il comitato di caseggiato in formazione completa, con a capo Schwonder. Il perché non lo sanno nemmeno loro. 8 gennaio. La sera tardi è stata formulata una diagnosi. Il professore, in quanto autentico scienziato, ha ammesso il proprio errore. La sostituzione dell'ipofisi non porta al ringiovanimento, ma a una completa umanizzazione, sottolineato 3 volte. Il che nulla toglie al valore della sua sorprendente, sconvolgente scoperta. Oggi per la prima volta ha fatto il giro dell'appartamento. In corridoio si è messo a ridere guardando una lampadina. Quindi, accompagnato da Filip Filipovic e da me, ha continuato fino allo studio. Si regge con sicurezza sulle zampe, cancellato, gambe, e dà l'impressione di un uomo piccolo e poco sviluppato. Una volta nello studio ha riso. Il suo sorriso è sgradevole e come artificioso. Dopodiché si è grattato la nuca, si è guardato attorno e io ho annotato una nuova parola pronunciata in modo distinto: borghese. Ha imprecato, un'imprecazione metodica, ininterrotta e con ogni evidenza del tutto insensata. In un certo senso ha un carattere fonografico. È come se quest'essere avesse sentito in precedenza da qualche parte le parole ingiuriose, le avesse automaticamente, inconsciamente trasferite nel proprio cervello e adesso le vomitasse fuori a iosa. Ma d'altronde non sono uno psichiatra. Per un qualche motivo le ingiurie producono su Filip Filippovic un effetto sorprendentemente penoso. Ci sono momenti in cui esce dall'osservazione discreta e fredda dei nuovi eventi e sembra quasi perdere la pazienza. Così, mentre l'altro stava imprecando, all'improvviso ha gridato innervosito: «Basta!» La cosa non ha prodotto alcun effetto. Dopo la passeggiata nello studio, con sforzi congiunti, siamo riusciti a riportare Sharik in ambulatorio. Dopodiché io e il professore ci siamo consultati. In primo luogo, lo devo confessare, ho visto quest'uomo sicuro di sé e dall'intelligenza sorprendente davvero sconcertato. Canticchiando, secondo sua abitudine, mi ha domandato: «Che mai faremo adesso?» E da solo si è così risposto alla lettera: «Unione moscovita delle sartorie. Sì, caro dottore». Io non capivo nulla. Ha chiarito: «La prego, Ivan Arnoldovic, di comprargli della biancheria, un paio di calzoni e una giacca». 9 gennaio. Il vocabolario si arricchisce di una nuova parola ogni 5 minuti, in media, a partire dalla mattinata odierna e di intere frasi. Sembrerebbe che siano congelate nella coscienza, si sciolgano e vengano fuori. La parola, una volta uscita, rimane in uso. Da ieri sera con il fonografo sono state registrate «non spingere», «canaglia», «scendi dal predellino», «te la faccio vedere io», «il riconoscimento dell'America» e «fornello a petrolio». 10 gennaio. È stata effettuata la vestizione. La maglietta l'ha indossata di buona voglia, ridendo persino allegramente. Le mutande le ha rifiutate, esprimendo la sua protesta con grida acute. «In fila, figli di cagna, in fila!» È stato vestito. I calzini gli stanno grandi. Nel quaderno seguono certi disegni schematici che da tutti gli indizi stanno a indicare la trasformazione di una zampa di cane in un piede umano. Si sta allungando la metà posteriore dello scheletro del piede, tarsus, estensione delle dita. Unghie. Reiterato insegnamento sistematico dell'uso del gabinetto. La servitù è del tutto sopraffatta. Ma va notata la capacità di comprensione della creatura. La faccenda si sta mettendo al meglio. 11 gennaio. È definitivamente giunto a patti con i pantaloni. Ha pronunciato una lunga frase allegra palpeggiando i calzoni di Filip Filippovic. «Dammi una sigarettina, ai calzoni con la righettina». Il pelo sulla testa è debole, morbido, come seta. Lo si potrebbe scambiare facilmente per dei capelli, ma sulle tempie sono rimaste le macchie biancastre. Oggi ha perso l'ultima peluria dalle orecchie. Appetito colossale, ha mangiato aringa con entusiasmo. Alle 5 del pomeriggio un avvenimento. Per la prima volta le parole pronunciate dalla creatura non sono state suscitate da fenomeni circostanti, ma sono risultate delle reazioni a questi ultimi. Per la precisione, quando il professore gli ha ordinato «non buttare gli avanzi per terra», inaspettatamente ha risposto «fuori dai piedi, pidocchio». Il professore è rimasto di stucco, poi si è ripreso e ha risposto «se ti permetti ancora una volta di inveire contro di me o contro il dottore, le buscherai». In quel momento ho fotografato Sharik. Posso garantire che aveva capito le parole del professore. Un'ombra cupa era calata sulla sua faccia. Ha guardato in tralice in modo abbastanza stizzito, ma se n'è rimasto zitto. Urrà! Capisce! Gennaio. Infilate le mani nelle tasche dei pantaloni. Lo stiamo disabituando dall'imprecare. Ha fischiettato: «Oi, piccola mela, è in grado di sostenere una conversazione». Non posso trattenermi dal formulare alcune ipotesi. Per ora al diavolo il ringiovanimento. Quest'altra cosa è incommensurabilmente più importante. Il sorprendente esperimento del professor Probaczynski ha rivelato uno dei segreti del cervello umano. A partire da oggi, l'enigmatica funzione dell'ipofisi, un peduncolo del cervello, è stata messa in chiaro. Essa determina la fisionomia dell'individuo. I suoi ormoni possono essere definiti i più importanti dell'organismo, gli ormoni della fisionomia. Nella scienza si apre un nuovo ambito. Senza bisogno di alcun alambicco di Faust, è stato creato l'homunculus. Lo scalpello del chirurgo ha chiamato alla vita una nuova unità umana. Professor Probaczynski, lei è un creatore. D'altronde sto divagando. Dunque è in grado di sostenere una conversazione. Secondo la mia supposizione, le cose stanno così. L'ipofisi, nell'attecchire, ha aperto nel cervello del cane il centro della parola e le parole ne sono fluite fuori a fiumi. Secondo me ci troviamo al cospetto del rigenerarsi di un cervello già sviluppato e non di un cervello di nuova formazione. Oh, mirabile conferma della teoria dell'evoluzione. Oh, somma catena che unisce il cane al chimico Mendeleev. Ancora un'altra mia ipotesi. Il cervello di Sharik, nella fase canina della sua esistenza, ha accumulato una gran quantità di concetti. Tutte le parole con cui ha iniziato a operare sono in primo luogo parole da strada. Le ha sentite e trattenute all'interno del suo cervello. Adesso, passando per strada, con segreto terrore, guardo tutti i cani che incontro. Solo Dio sa che cosa si nasconda loro nel cervello. Sharik leggeva. Leggeva, triplice punto esclamativo. L'ho intuito. E precisamente leggeva partendo dalla fine. E so persino dove sia la soluzione a questo enigma, nell'intersezione dei nervi ottici del cane. Impossibile immaginare cosa stia succedendo a Mosca. 7 bottegai sono già stati incarcerati per aver diffuso voci relative alla fine del mondo provocata dai bolscevichi. Daria Petrovna ne parlava e aveva persino precisato il giorno esatto, il 28 novembre 1925, il giorno del beato Stefano Martire. La terra se ne volerà contro l'asse celeste. Certi truffatori stanno già tenendo conferenze. Abbiamo suscitato una tale baraonda con quell'ipofisi che quasi viene voglia di scappare dall'appartamento. Mi sono trasferito qui dal professore su sua richiesta e trascorro la notte in sala d'attesa assieme a Sharik. L'ambulatorio è stato trasformato in sala d'attesa. Schwonder aveva dunque ragione. Il comitato se la gode. Negli armadi non c'è più un solo vetro, tanto si è messo a saltare. A fatica gli abbiamo insegnato a non farlo. Sta succedendo qualcosa di terribile a Philippe. Quando gli ho parlato delle mie ipotesi e della speranza di sviluppare Sharik fino a renderlo un'individualità psichica molto elevata, ha borbottato qualcosa e ha risposto: «Lei crede?» Il tono era sinistro. Possibile mi sia sbagliato? Il vecchio ha in mente qualcosa. Mentre io mi occupo del diario clinico, lui studia la storia dell'uomo al quale abbiamo preso l'ipofisi. Nel quaderno ho inserito un foglio. Klim Grigorievich Zhukunkin, 25 anni, scapolo, non iscritto al partito, simpatizzante. Ha subito 3 processi ed è stato assolto. La prima volta per mancanza di prove, la seconda l'ha salvato la provenienza sociale, la terza 15 anni di lavori forzati con il beneficio della condizionale, per furto. Professione suona la balalaica nelle trattorie. Basso, poco sviluppato, fegato ingrossato, alcol. Causa della morte, un colpo di coltello al cuore nella birreria Stop Signal. Il vecchio studia l'anamnesi di Klim senza lasciarsi distrarre. Non capisco dove sia il punto. Ha borbottato qualcosa a proposito del non aver pensato di esaminare tutto il cadavere di Zhukunkin. Dov'è il punto? Davvero non capisco. Non è forse indifferente a chi appartenga all'ipofisi? 17 gennaio. Non ho annotato nulla per alcuni giorni. Ho avuto l'influenza. Nel frattempo le sembianze si sono definitivamente formate. A. Per struttura del corpo è definitivamente un uomo. B. Il peso è all'incirca di 50 kg. C. Di bassa statura. D. Testa piccola. E. Ha cominciato a fumare. F. Si veste autonomamente. G. Sostiene correntemente una conversazione. Ma guarda un po' l'ipofisi, scarabocchio. Con questo concludo il diario clinico. Dinanzi a noi c'è un nuovo organismo e bisogna osservarlo fin dall'inizio. Allegati, stenogramma dei discorsi, annotazioni del fonografo, fotografie. Firma, assistente del professor F.F. Probaczynski, dottor Bormental. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.